un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Giorgio De Luca è il nostro autore, cioè Pietro Lacorte ancora in regia, Giovanni Melchiorre in redazione, ha sfidato temperature improbabili milanesi per venirci a trovare Giovanni Capuano qui in studio. Che la traversata del deserto. La traversata del deserto in realtà è meno... È meno faticosa. Sì. Ciao Pierluigi Pardo, tu sì che fai una bella vita. Sei con i piedi nell'acqua, dai. Ma che te? No, dai, me lo puoi dire. Cose burocratiche, anche sangue, tracce di sangue nel colesterolo ho trovato, è sempre incoraggiante, no? Sì, come l'ultimo, cioè, il colesterolo, poi un pezzettino di sangue, un po' di sangue. No, tutto bene, alla grande. Allora, poi parliamo anche invece del sangue che inopinatamente si è visto ieri a Castel, rotto, una cosa incredibile. Poi ne parliamo, ma prima fammi scherzare un po' su altri temi. Parleremo dell'ultimo tweet di Salah che dice: "Be ready to change your profile picture." Quindi pronto a cambiare l'immagine del profilo di Twitter, quindi è facile, adesso è quello con la maglia della Fiorentina, facile che presto lo vedremo con quello della Roma, molto presto. Allora, ieri abbiamo parlato di telecronache, lessico delle telecronache, scarichi, carico, e penetrazioni. Capuano, ti piace quando il tecnologista dice scarica la palla? Sì. È un termine tecnico, no? Non mi emoziona, però oddio, è un termine tecnico. Possiamo invece discutere anche di pronunce. Come pronunci il nome del nuovo portiere della Roma, Pierluigi? Chesney. Sì, la pronuncia è corretta, però sulle pronunce è un discorso interessante, perché ad esempio, io da quando sono ragazzino che ho capito che, per dire, Göteborg si dovrebbe pronunciare in un'altra maniera, Göteborg. Ecco, e qui ci sono due scuole di pensiero. Io sono della scuola di pensiero che le pronunce vanno il più possibile italianizzate, cioè rese comprensibili. E a me urtano un po' quei colleghi che invece usano far capire che loro sanno la pronuncia, quella proprio giusta, Shaqiri, perfetta, ecco, in lingua locale, perché poi io credo che alla fine noi dobbiamo dare un servizio a chi ci ascolta. Uh-huh. E chi ci ascolta deve capire di che cosa stiamo parlando. Sono d'accordo, poi è chiaro che non bisogna dire Leicester. chiaramente all'estero, poi se sentono le pronunce tanto un po' drammatiche, però sono d'accordo con te, in linea di massima. Poi ci sono delle debolezze, per esempio Javier Zanetti, devo dire la verità, io l'ho sempre chiamato Zanetti, ma anche perché spesso giocava con Cristiano Zanetti e quindi certo, in qualche circostanza era un modo, e quindi poi gli hanno chiamato Zanetti e poi rimani con quello. Però sono d'accordo in generale sul non stare a fare troppi fenomeni sulle pronunce. Io mi ricordo una battaglia epocale quando arrivò Falcao, poi diventò Falcon o Fosson. C'era la canzone, in Italia c'è un bel uomo che aveva a Roma, chi gioca a Roma, un fantastico calciatore, il suo nome è Falcon. De Luca, sì. trova. Poi è arrivato Fassone. Fassone. No, mi ricordo. Però su Chesney, cioè ci sono i colleghi del... Però Chesney non è difficile. È una serie di consonanti messe una dopo l'altra. Però ci sono i colleghi del Corriere della Sera che sono andati, hanno fatto un salto in giro per Roma e hanno chiesto: ma come si chiama per te il nuovo portiere? Come è Davide, ma anche i nomi in italiano io so di... Figurate. Chesney. Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny. Wojtek Szczęsny. No, Szczęsny. Szczęsny. No, ma ce n'è degli altri, voglio sentirne ancora. Dammene un altro po'. Szczęsny. Wojciech, no. Szczęsny, lo conosci tu, Tizia? Wojciech Szczęsny. Però fenomeno, in modo che si faccia ripagare per il cognome che c'ha, insomma. Ah, poi non chiamavo. Secondo me quando sono nel paese mio, quando non. Si rigira, no? Si rigira. Certo, è grosso per rigirarsi, però da lontano lo chiami. Hai capito? 800240024, diteci il nome del portiere della Roma. Non è difficile, Szczęsny. Beh, dov'è tutta questa difficoltà? Però pensate, pensa Pierluigi, che anche in Inghilterra Giorgio De Luca è andato a scovare questa roba. Hanno fatto una roba simile quando giocava, aveva preso l'Arsenal. Non è che anche in Inghilterra fossero proprio così bravi nella pronuncia del nome di questo portiere polacco. Can you read this name? This name? Ah, no, I can't. Szczęsny. Okay. Quite okay. Thank you. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny. Wojciech Szczęsny. Kochan Szczęsnego. Szczęsny. Number one. Direi meglio per distacco, però, a meglio Roma per distacco, a Roma Szczęsny, in Inghilterra Szczęsny. Comunque noi quest'anno abbiamo il problema di Mandžukić, o Mandžukić, perché c'è la doppia scuola di pensiero anche in questo caso. Lui ha detto che si pronuncia Mandžukić. Ho l'impressione che andremo avanti tutto l'anno a sentire. Usiamo una bella, tanto è un nome lunghissimo. Una bella. Anche sul Zeko c'è chi lo chiama Zeko, che sembra veramente. Zeko e Zeko, esatto. Zeko e Zeko. Tanto Zeko arriva, no? Tanto arriva, no? Beh, se dai se ne spossi, direi. Potrebbe arrivare, ma non ho conferma. Non hai conferma? No, ma diceva Sven Goran Eriksson. Ma tanto bene, secondo tanto, meno bene. Arriva. L'ha spoilerato Jovetic. Che gli hanno detto dopo la partita l'amichevole col Manchester City, ha detto: vero che vieni a Roma tu, dai? Lui ha detto: no, io no, viene Dzeko. Ah. E quindi sarà invece be ready to change the photo of the profile, quindi sarà, lo diamo per fatto. Come li vedi tutti e due nella Roma, Pierluigi? Molto bene. Allora, secondo me la priorità assoluta è l'attaccante. Dzeko non è un attaccante da 20 gol a stagione, diciamocelo apertamente, però è un punto di riferimento che la Roma non ha da anni, quello di un attaccante fisico da soluzioni aeree, quindi secondo me il giocatore che serviva. Poi potevi trovare di meglio, insomma, Higuain è più forte, senza arrivare ovviamente a Falcao, però insomma è un acquisto secondo me di altissimo profilo. Lo scorso anno ha avuto una stagione negativa, bisogna capire se è una... così, se è stato un episodio oppure se è un passo verso un declino, però è un grande giocatore, cioè stiamo parlando di un grande acquisto, di uno che voleva Mazzarri anni fa a Napoli, piace a tutto, ma siamo veramente su livelli importanti, ma secondo me siamo nella categoria di Mandžukić. Ma proviamo a lanciare un sondaggione per i nostri amici, magari lo mettiamo anche su Twitter. Cioè, se davvero arrivano Salah, Dzeko e un esterno sinistro difensivo tipo Adriano, quanti punti è distante la Roma dalla Juve? Perché io ho l'impressione che comincia a diventare una squadra che ha un suo perché e può anche ambire a pensare di fare il campionato, non dico alla pari con la Juve, ma altamente competitivo. Allora, a quanti punti è se arrivano quei tre dalla Juve? Abbiamo Giorgio De Luca, l'ha presa subito, Falcao Fosson. Senti, prima del traffico, raccogliendo il sondaggio di Giovanni Capuano, secondo me è molto difficile rispondere, perché dov'è la Juve dopo la rivoluzione? E questo è un altro bel tema. Dopo il traffico parleremo anche di nuove chimiche di centrocampo con un centrocampista. Però prima del traffico ne ho una anche per te, Pierluigi Pardo. Ce l'ha mandata un ascoltatore via mail, si chiama Elio Voltolini. Vuoi sentire? Vai. Senti qua. Ci scusiamo con i radioascoltatori perché ci siamo accorti che il signor Pardo non ha un telefono, ma un citofono e per giunta rotto. Eh? Eh no, ma è un nuovo filone, è un nuovo filone di pubblicità questo qui ormai. Cioè, prendi in giro il telefono di Pardo, dai, insulta anche tu. Però so che ieri ho anche discusso con De Luca perché gli ho detto che mia mamma mi sente benissimo, e però evidentemente sono le orecchie dell'amore, perché poi in realtà solo lei. E quindi questo è quanto. Allora, traffico. Discreto giocatore. Tutti convocati. Tutti convocati. Napoli è una squadra che mi ha cercato più, che mi ha voluto fortemente, quindi io ho detto ai miei giocatori che volevo venire di posto, perché è una grande squadra, c'è i campioni di qua, quindi non vedevo l'ora di iniziare questa nuova avventura qua a Napoli. Questo Allan, ce n'è un altro? Penso che è un allenatore bravissimo che sta cercando di trovare l'equilibrio nella squadra, fase offensiva e fase difensiva, che è uno che chiede sempre il 100% del suo in allenamento, quindi ha una fama incredibile, penso che è un bravissimo allenatore. Questo era Alan, anche lui voce un po' dall'oltretomba, ma è arrivato finalmente dopo una lunga tarantella napoletana. Allora, c'è chi, Teo, che scrive: la Roma non può vincere anche riducendo il gap a due grossi problemi. Questa è una risposta a te, Giovanni Capuano. Totti, ma soprattutto l'uomo in panchina, Garcia, che io confesso, per rispondere, lo aggiungo io, mi sembra discretamente esautorato. Non dalla curva ma dalla società e forse anche dal gruppo, questa è la mia impressione. Antonio Di Gennaro, a proposito del grande centrocampista di cui sopra. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Raggiungi così la compagnia, c'è ovviamente anche Pierluigi Pardo. Si stava dicendo, Dzeko arriverà, Salah sta arrivando, ha annunciato su Twitter, pronto a cambiare profilo dalla maglia della Fiorentina a quella della Roma. Giovanni Capuano chiedeva quanto si riduce potenzialmente in questo modo, ma anche con un terzino sinistro, poniamo Adriano, il gap dalla Juventus. Ma oddio, con Salah e Dzeko sarebbe un attacco sicuramente di grande livello, e poi insomma teniamo presente che c'è ancora un giocatore, nonostante l'età di 39 anni, che potrebbe essere sempre, ed è il valore aggiunto, che è Francesco Totti. E quindi però sarebbe un attacco che si completa, perché sarà un giocatore che svaria per tutto il fronte dell'attacco, cioè ecco, proprio presenza in area di rigore, sarebbe un attacco veramente forte, potrebbe sicuramente trovare quella capacità realizzativa che è mancata tanto alla Roma l'anno scorso, e competere di più con la Juventus, come dovrebbe competere il Milan se finisse la campagna acquisti, come dovrebbe finire e completarla, la stessa Inter. E poi cioè, comprandone uno solo, dice, come deve la finire Roma, la campagna acquisti il Milan, dico, comprando Ibra, poi il resto. Ma Ibra, no. Poi credo un altro centrocampista di qualità dovrebbe arrivare, ma soprattutto un difensore centrale, dove Mihajlovic sta vincendo per Romagnoli, anche sulle fasce. Io ho commentato il Lione, normale che siamo ancora in fase di preparazione, però De Sciglio ancora non sembra tornato il De Sciglio che conoscevamo, che si era imposto all'inizio. Calabria è un giovane interessante che mi è piaciuto come personalità, però sappiamo che insomma sono i giovani, quindi il Milan deve trovare anche sulle corsie esterne, visto il modulo di Mihajlovic 4-3-1-2, che sono importanti. Però arrivasse un centrocampista di qualità e con Ibra, Bacca e Luis Adriano, insomma, mi sembra che sia un Milan di tutto rispetto. Milan che ha inserito nel centrocampo solo Bertolacci con De Jong e Montolivo, almeno stando agli exit poll delle formazioni di luglio, che ha cambiato tantissimo, quasi una rivoluzione, è la Juventus. In questi giorni, Antonio, con Pierluigi si diceva: meglio di così non potevo operare sul mercato. Resta però un'incognita, cioè quella di una personalità che era quella di Pirlo, di Vidal, di Tevez, che non si compra neanche al calciomercato. Vabbè, d'accordo, sono tre giocatori che hanno fatto grandissime cose, non soltanto a livello tecnico, ma soprattutto di grande personalità in campo, però insomma ci sono situazioni che bisogna compensare. La Juve mi sembra si sia mossa bene. Per quanto riguarda Pirlo, beh, Marchisio come personalità ne ha da vendere, poi il ruolo che ha ricoperto sempre molto bene, sia quello di regista davanti alla difesa, che un po', diciamo, lo stesso Allegri ha sempre privilegiato, anche quando Pirlo era al Milan, lui preferì Van Bommel, giocatori che hanno, diciamo, un diverso modo di interpretare questo ruolo, però sempre con grande efficacia. Per quanto riguarda poi l'attacco, è arrivato un giovane, secondo me, tra i più forti in assoluto, che è Dybala, poi un giocatore di grande esperienza e di presenza anche lui in area di rigore, che è Mandzukic, e c'è, c'è sempre Morata che può solo migliorare, quindi riguardo offensivo ci siamo. Certo, questi giocatori non puoi, la personalità non è che li alleni durante la settimana, o ce l'hai o la puoi acquisire, proprio perché il gruppo è quello, è quello. C'è da dire anche che dal punto di vista dei giovani mi sembra che la Juve si stia muovendo bene. Rugani credo che sia il difensore del futuro insieme a Romagnoli, e poi lo stesso Zaza, Berardi in parcheggio, quindi mi sembra Sturaro che è migliorato tantissimo. Mi sembra che sia la Juve che sta preparando soprattutto il discorso futuro, sempre tenendo presente che è abituata e deve soltanto vincere anche nel presente. Voi non avete l'impressione che tanto la Juve è stata perfetta a inizio mercato, perché si è mossa in anticipo, aveva le idee chiarissime di Dybala, Rugani, ha fatto tutto per tempo, anche Mandzukic. Mi dimenticavo di Neto, che in prospettiva Neto, sarà il numero uno. Neto bloccato da diversi mesi. Sul 10 si ha un po' di rincorsa al mercato della Juve, cioè è da gennaio che Allegri chiede un 10, vuole quella figura, ed è una figura condizionante, se vogliamo, di quello che sarà la nuova Juventus. Oggi la Juve sta cercando, ha una rosa di nomi, finisce quasi per dare l'impressione che se arriva Draxler non era il primo della lista in quella che dovrebbe essere la scelta decisiva di questo mercato. Guarda, sì, io sono d'accordo anche perché poi comunque delle situazioni, degli scenari poi sono andati in evoluzione durante, no? Cioè Vidal, io non credo che all'inizio, non credo che a maggio la Juve fosse sicura di vendere Vidal. C'era tutto il discorso legato a Vidal, legato alle offerte per Pogba, è stato blindato. Lo capisco, posso anche essere d'accordo, però non mi sembra una situazione normale, non mi sembra una situazione grave, patologica o difficoltà. La Juve non ha fretta, secondo me è una squadra molto forte in questo momento, comunque la favorita del campionato, ha fatto un tesoretto di soldi, se li è portati a casa, e adesso farà con calma il suo numero 10, senza farsi prendere troppo per il collo. È chiaro che nel momento nel quale vendi, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, valeva per il Napoli quando ha venduto Cavani, vale per tutte le società che hanno soldi in una determinata situazione che devono comprare, il rischio che ti portino un po' a spasso sul prezzo c'è, perché fanno, perché certo, non è che sia certo. Il segreto di Fatima il fatto certo. Che la Juve debba comprare un trequartista, ma io penso che la Juve se la giocherà con grandissima calma, senza fare follie per il sì, però Pier, vedi, il discorso è questo: Dybala non è costato poco, la Juve aveva le idee chiare, quanto servono? 40 milioni e 40 milioni gli ha dato su Draxler, sì, no, per carità, è un 93, ma anche Draxler è un ragazzo a 21 sì, sì. anni, 22, però ad esempio su Draxler emerge la perplessità. Allora, vuoi fare il prestito, non legarti subito, perché comunque è un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto degli infortuni, delle difficoltà fisiche, e ripeto, è un giocatore che se poi tu porti dentro diventa condizionante, perché diventa l'elemento che Allegri vuole. Lo può fare il per cambiare anche. Lo sai chi lo potrebbe fare anche il trequartista? Proprio Dybala. Sì. Ma voi siete convinti di questo? Perché Dybala è esploso a Palermo giocando da punta unica con dietro un 10. Pure secondo me. Ecco. Pure secondo me. Esatto. Per me Dybala è il Morata di quest'anno. Cioè giocatore esatto. L'attaccante che parte di rincorsa, perché non parte titolare, che avrà delle occasioni per farlo. Ma può fare il 10? Ma può fare il 10, ma non è il suo ruolo. Può fare il 10, ma non è il suo ruolo. Quindi cioè, secondo me è adattato del ruolo di trequartista, quindi lo può fare, ma non è il massimo. Secondo me la Juve un 10 lo compra e fa un po' lo compra. È chiaro che Goetze ha un altro così livello, ha un'altra esperienza, ha un altro pregresso. Antonio, Dybala può fare il 10? In alcune circostanze dicevo mi sembra di sì, perché uno che ha imparato proprio a giocare, uno che corre molto, che abbina la qualità e anche la quantità. È normale che il suo ruolo, come diceva giustamente Pierluigi, è come seconda punta. Ha giocato di punta centrale in Palermo, però è un po' atipica perché aveva, diciamo, vicino a sé Vasquez, proprio era un 3-5-1-1, ci ricordiamo, dove si completavano un po' tutti con gli esterni, gli inserimenti centrocampisti. Quindi credo nella Juve poi possa andare ancora meglio, perché insomma la squadra di livello è superiore. In alcune circostanze, se non dovesse arrivare questo 10, potrebbe essere lui. L'ha fatto anche Pereira, ovviamente con situazioni diverse. Io credo che Götze arriverà, anche perché mi sembra che al Bayern qualche problema ci sia. E poi, tornando al discorso di draft, il discorso proprio di infortuni ha fatto sì che la Juventus puntasse prima su Dybala, che è un giocatore in prospettiva futura in quel reparto, che insomma insieme a Morata potrebbe essere veramente una squadra che può andare avanti di 7-8 anni. Sì, sì, sì, sì. Un'ultima cosa, Antonio, sull'Inter, con Ndombia e mettiamo Perisic, sono due giocatori che cambieranno il centrocampo dell'Inter? Ma con Ndombia sicuramente sì, anche perché per come e per quanto l'hanno pagato, se non cambia il centrocampo si morderanno le mani. Ha fatto un investimento importante, secondo me anche abbastanza oltre quelle che sono le sue diciamo il suo livello, anche se è un buonissimo giocatore, ma insomma la cifra è importante nei 5 anni. E Perisic è anche lui giocatore che può dare quella qualità che serve a Mancini. Credo che debba migliorare, soprattutto anche trovare questo regista che dia proprio, insomma, che manca da una vita all'Inter, soprattutto che possa proteggere una difesa che già si sta completando con Miranda, Modiglio e anche, speriamo, anche per il nostro calcio con il recupero di Ranocchia. Grazie Antonio. Grazie a voi, un saluto. Ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao, Antonio, ciao. Di Gennaro, che ne pensi? Io dell'Inter non ho capito che Inter è in testa Mancini. Cioè, alla fine, se vuole fare quella con i due davanti alla difesa e poi una punta Icardi e tre dietro, oppure se ha in mente quella che sta facendo giocare in queste amichevoli con il rombo, con Kovacic, regista basso, perché passa una certa differenza. In assoluto mi sembra ci sia anche un po' di frenesia. Ieri abbiamo vissuto questo giallo di Medel, con la smentita immediata dell'Inter alle parole presunte di Ausilio sull'incedibilità, il che significa per evidente passaggio logico che Medel è sul mercato per andare a prendere Felipe Melo, che è vero che è un giocatore in parte diverso, però io non so se è un giocatore che poi sposta gli equilibri dell'Inter. Eppure c'è questa frenesia di vendere Medel per poter imbarcare Felipe Melo, quando mi pare che l'Inter abbia altre priorità in questo momento. Io non ho capito, Pier, ti dico la verità, esattamente qual è l'Inter numero uno che è in testa Mancini. No, la priorità per me è il terzino in questo momento, e ovviamente chiudere il discorso attaccanti, Perisic, eccetera. E per quanto riguarda Felipe Melo, Medel, sono d'accordo con te, cioè siamo nella stessa categoria di giocatori, francamente non mi sembra, forse diciamo nei momenti migliori della carriera di Felipe Melo, Felipe Melo qualcosa in più può dare, ecco, penso alla Confederations Cup del 2009, ma insomma siamo lì. Siamo lì, quindi ci può stare il scambio, ma non deve essere visto come una roba da fare, ma questione di vita o di morte. L'Inter deve trovare un giocatore alla Jovetic, un giocatore già un po' di una soluzione alternativa lì davanti, e un terzino, è un grande terzino, e da questo punto di vista sicuramente il messaggio di far giocare Di Marco l'altro giorno titolare, tra l'altro soffrendo, subendo moltissimo, sì, fine scorsa, esagerato come messaggio, fine esagerato, perché insomma è stato una sottolineatura. Il primo tempo non è stato un bello spettacolo, diciamo la verità, no, per Di Marco, per Di Marco i primi 20 minuti sono stati imbarazzanti, mi portano ovunque, ma insomma io in telecronaca cercavo perché non è che io possa dare le pagelle, però insomma da un certo punto di vista mi faceva quasi tenerezza, no? Nel senso, comunque ragazzo 97, c'hai contro uno che è un giocatore importante, che ha giocato per anni allo Shakhtar, che è arrivato a 30 milioni di euro, ci può stare. Quindi ho sottolineato più volte il fatto che quel tipo di sofferenza era in qualche modo anche fisiologica, perché no ma guarda, Pier, siamo tutti d'accordo sul fatto che è stata una sottolineatura dimostrativa quella di Mancini. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Sì, a Pardo, di togliere il telefono da quella custodia per non farlo bagnare, perché non si capiva niente. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Vergogna! Nuovo livello, è solo l'audio, il video, se ne avete voglia, se avete voglia di qualcosa di sgustoso, andatelo a vedere. Scimmie del Bologna e dello Spezia che se le suonano nel parco giochi vicino al campo in cui le due squadre dovevano giocare un amichevole a Castelrotto. Ieri è successo anche questo. Sempre Giovanni Capuano qui con me, parlo al telefono. Ieri è successo anche qualcosa di bellissimo. A Pasadena in 93.000 sono andati per vedere l'amichevole del Barcellona senza Messi. Il che secondo me suggerisce un parallelo tra il Medioevo, dove purtroppo noi, ma non solo noi, perché purtroppo non è un discorso soltanto nostro, noi in questi giorni raccontiamo scene simili anche in Germania, in Inghilterra, poi noi non ci facciamo mancare nulla. Ecco, tra il Medioevo e il futuro, e se noi non stiamo attenti, quel futuro lì prima o poi ci sorpasserà definitivamente, anche perché sorpassare chi è fermo come noi nei nostri vizi, nei nostri difetti, non è difficile, eh? Sì, guarda, è la domanda vera, l'unica domanda vera, proprio mettendo in qualche modo in comparazione questi due universi, è se esista un equilibrio per non perdere un po' dell'anima tradizionale del calcio e delle tifoserie europee, nel senso che con lo spettacolo di Pasadena sono d'accordo con te, è bellissimo, io l'ho sottolineato sia in radio che facendo le telecronache, quanto sia bello vedere gente dall'altra parte del mondo, in Cina, in Australia, negli Stati Uniti, che impazzisce per vedere il Real Madrid in Barcellona, o anche le squadre italiane che partecipano ad esempio all'International Champions Cup, e questo è bellissimo. È chiaro che è un pubblico diverso, no? È un pubblico che non ha la tradizione, che sogna di poter partecipare a questa festa, e lo fa quindi con una purezza straordinaria. Il nostro calcio è un altro calcio, è anche il calcio delle curve, il calcio delle rivalità tradizionali, e che secondo me fanno parte del gioco. È chiaro che poi siamo a 20 luglio e già abbiamo avuto Eintracht Leeds, Anderlecht Lazio, Bologna Spezia e forse anche qualcos'altro. L'unica soluzione sarà quella, e ti dico la verità, è una soluzione che mi piace, sicuramente è meglio che vedere 20 ultra del Bologna che si menano con 20 dello Spezia nell'area gioco dei bambini, ma non è il mio ideale. Cioè, a me piacerebbe uno stadio un po' tradizionale, anche con le curve, ma evidentemente l'unica strada percorribile a un certo punto sarà quella, per cui se le cose non cambiano da sole, se non si arriva a un'autoregolamentazione, alla fine poi li chiuderanno da qualche parte, e lo stadio sarà quello che abbiamo visto a Pasadena, quindi con una serie di persone che pagheranno magari 100-150 euro minimo per andare a vedere la partita. Quello, che poi è la base del modello inglese, cioè, è la base del modello inglese, dove si sceglie il tifoso cliente. Io volevo, se poi chiudiamo questo discorso, non lo so, oggi mi sono piaciute tanto le parole di Tacopina, che ha fatto questa nota per stigmatizzare quello che è successo ieri, per dire che non ci deve essere posto per questa gente intorno al Bologna, perché si fa dei danni che poi possono anche essere irreversibili. E mi ha fatto riflettere questa cosa, perché Tacopina viene dagli Stati Uniti esattamente come Pallotta. E io spero che la forza anche di queste persone che vengono da altri mondi sia al di là di portare soldi, di far crescere delle piazze interessanti come quella di Bologna, sia proprio di aiutarci anche noi, che ogni tanto facciamo fatica a staccarci da questi legami, a prendere le distanze da certe cattive abitudini. Sì, andiamo. Sono d'accordissimo. Il discorso di Pallotta era stato un discorso sicuramente discutibile nella forma lessicale utilizzata, che poteva suonare offensiva e che secondo me ha creato dei malintesi. Perché poi, anche se non è abbastanza chiaro, c'è chi in buona fede, in assoluta buona fede, ha pensato che quel riferimento fosse a tutta la curva, fosse a tutte le persone. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, diplomaticamente ha creato qualche imbarazzo. È evidente che questi proprietari americani, canadesi, che vivono, che sono nati a migliaia di chilometri... Fanno fatica a capire queste cose. Ma proprio non lo capisco. Non ne vogliono nemmeno capire. Canada dovrebbe capire l'origine di una rivalità fra 20-30 persone, tifosi del Bologna e 30 aspetti. Cioè, capisci che è una roba che non sta né in cielo né in terra, così come Pallotta... Secondo me all'inizio Pallotta e la società AS Roma, quando c'è stato il drammatico episodio di Napoli-Fiorentina, la morte di Ciro Esposito, o meglio il ferimento a suo tempo, ti dicono che loro erano a Catania, erano a Catania, la Roma era lontana 600 km, doveva giocare una partita che era importante per la classifica, e non c'entrano nulla con quella situazione lì. Sì. Quindi non fanno proprio fatica, secondo me, da un punto di vista anche... È chiaro. Cosa c'entra uno di Boston con un ferimento che avviene purtroppo certo. con la morte e cosa c'entra ragazzo. E cosa c'entra il nuovo proprietario del Bologna con questi che se ne suonano nel parco giochi di bambini a contorno di un amichevole? Cioè è una cosa che non sta su questo pianeta, almeno sul loro pianeta. Barbara Livorno, buongiorno. Dica. No, volevo pronunciare correttamente il nome di quel giocatore polacco. Bada. Sì. Wojciech Szczęsny. Oh mamma mia, siamo messi male. Ma il livornese poi a lei. Pronunciamo il livornese. No. Perché lei poi da 27 anni sono italiana, ma toscana, ma non di Livorno, come si sente? Quindi Szczęsny. Me lo ripete? Szczęsny. Szczęsny. Io non ce la faccio. Barbara, non ti offendere, guarda. Se facciamo Szczęsny, sempre e solo Szczęsny. Sì, poi per il nome potete usare il diminutivo Wojtek. Beh, Wojtek possiamo. Wojtek, ci stiamo dentro con Wojtek. Wojtek ce la possiamo. Il diminutivo del nome. Che sarebbe sì, del nome Wojciech. Il nome è? Wojciech. Il diminutivo è Wojciech. Sì, che a volte lo traducono come Adalberto. Adalberto è perfetto. Adalberto Szczęsny che recupera il pallone. Bello Adalberto Szczęsny, fa anche letterario, eh? Sì. Le avventure di Adalberto, dell'ispettore Adalberto Szczęsny. Va bene. No. Però penso che per lui sarebbe meglio Wojtek. Vabbè, alla Wojtek. Ragionateci sopra voi tre cronisti, io lo chiamo Adalberto per tutto. No, a Roma lo chiameranno, se questa cosa prende piede lo chiameranno Adalbe. Scrivono Ada sulla maglia. No, prima avevo un messaggio di un ascoltatore che ricordava eccolo qui. Intervista storica della Rai alla Navratilova. Ci dica una volta per tutte, si pronuncia Navratilova o Navratilova? Risposta: in verità si dice Navratilova. Hai capito? Vabbè, ma noi continuiamo a dire Mino Raiola. Voi non so se avete mandato ieri Raiola. Ieri, se voi avete mandato l'audio di Ibrahimovic, l'ha chiamato Mino Raiola. Sì, poi adesso discutiamo anche del contenuto di quell'audio. Dopo Andrea da Rimini, buongiorno. Buongiorno a tutti i signori. Sicuramente Totti lo chiamerà Albe. Vieni qua. Volevo rispondere al sondaggio del gap tra Roma e Juventus. Sì. Vi do una chicca di mercato, segnatela il 23 luglio alle 14:40. Sì. Zeko arriva alla Roma, ma fa il secondo. Fa panchina anche a Roma perché il centravanti titolare sarà Ibrahimovic. Bah. Mi sembra. Tutte e due non arrivano. Diciamo che allora, Ibra alla Roma è un'idea, se ne è parlato. Io l'ho detto, il personaggio andrebbe perfetto, soprattutto per Roma o Napoli, nel caso di partenza di Ibrahim, ci sarà. Perché secondo me sono società che sono cresciute, però sono stancate di crescere. E quindi manca il catalizzatore. Meglio un giorno di gloria che tanti piazzamenti. Questo è un po' lo spartano, perché di così della Roma che si vede Napoli. E Ibra è il giocatore che meglio di qualunque altro ti può far fare un salto di qualità veloce. Detto questo, non è costa di ingaggio tantissimo e mi pare che la Roma abbia fatto altre scelte. Quindi ma per me Ibra va al Milan. Sì, anche secondo me adesso lo chiediamo subito dopo il traffico anche a un procuratore, magari ci illumina un po' di più. Poi c'è un altro discorso che voglio toccare, ne abbiamo accennato nei giorni scorsi. Sappiamo che i club italiani devono vendere e sfoltire le rose per regolamento, questo io sono convinto li mette in posizione di inferiorità sul mercato, perché ovviamente lo sanno anche gli altri. Traffico. Senti, per quanto riguarda il tuo futuro, sarà sempre a Parigi? Il mio futuro è in mano di Mino Raiola. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque torniamo, Giovanni, la prossima stagione rosa di 25, no? Composta da 8 giocatori di formazione italiana, che non significa italiani, ma significa che tra i 15 e i 21 anni siano stati per almeno 36 mesi, per almeno 3 anni, per almeno 3 stagioni in un club italiano, tesserati per un club italiano, quindi non interessa che abbiano il passaporto italiano. Sì. Dall'anno prossimo invece questi 8 diventeranno 4 di formazione italiana e 4 provenienti, sempre con gli stessi paletti, con le stesse regole, dal vivaio del club. Quindi attenzione, perché si restringerà ulteriormente il campo. Se tu non hai 25 giocatori formati così, quindi 8 che abbiano queste caratteristiche e i restanti 17 che siano liberi come vuoi, tu ne puoi iscrivere meno di 25. Quelli che iscrivi a inizio dell'anno sono quelli che possono giocare, gli altri fanno tribuna. Sei libero, a prescindere dalla nazionalità, di iscrivere qualunque under 21. Ne puoi anche acquistare e tesserare 200, per intenderci, e li puoi mettere in lista. Beh, è un regolamento in qualche modo ricavato da UEFA. La razza è molto simile, quindi 25 giocatori con la possibilità poi di andare a prendere degli under e quanti te ne pare, ovviamente limita la squadra B in pratica in caso di emergenza, e soprattutto con un focus nei confronti dell'origine calcistica dei giocatori. Questo è un concetto politicamente poi il calcio per certe cose è molto più avanti della politica, nel senso che in pratica recepisce un concetto di cittadinanza molto più legato alla reale presenza su un luogo, alla formazione, di aver fatto il vivaio. Non voglio fare sociologia, però questo è interessante anche su tutti i dibattiti sugli ius soli, no? sulla cittadinanza, perché da questo punto di vista certamente un cittadino di qualsiasi parte del mondo sia, che si è formato nel nostro paese dal punto di vista calcistico e ovviamente anche dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, viene considerato italiano. Io personalmente sono d'accordo, cioè mi piace, mi sembra che questo tipo di meccanismo sia comunque in linea con l'idea di mondo che c'è. Piace anche a me, con la quale bisogna piace molto anche a me, ma il problema è adesso, cioè il problema è che ci sono tutti i grandi club, e non solo quelli, che si trovano sovraccarichi di giocatori che dovranno pagare magari per mandarli in tribuna, e il problema è che ovviamente l'interlocutore, che sia dell'Inter per Shaqiri o della Roma per Gervinho, per Dumbia la vedo dura, per gli Aici, io ti dico una cosa perfettamente, Carlo. Shaqiri è il problema minore per l'Inter, in qualche modo Shaqiri ha un mercato internazionale, sì. E alla fine, quando gli sarà passata la stizza e avrà trovato il compromesso economico, se ne andrà. L'Inter ha una dozzina di esuberi che però non sono piazzabili, perché non hanno magari un mercato fuori, all'estero, e in Italia il problema è che è 25 per tutti, quindi noi dobbiamo dimenticarci quelle operazioni che abbiamo sempre visto negli anni scorsi, per cui negli ultimi 10 giorni di mercato un club, grande club ad esempio, prestava 5, 6, 7 giocatori che venivano tesserati da altre società, perché le altre società saranno magari ugualmente arrivate al tetto dei 25. Poi c'è un altro tema, poi magari ne parliamo con calma. Ne parliamo con Fabio Parisi, se vuoi, iniziando da questo. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Stavamo facendo questo discorso, secondo cui per nuovi regolamenti ci sono società sovraccariche di giocatori, ed è molto difficile per le leggi del mercato. Se devo vendere questa penna e tutti sanno che la devo vendere, è chiaro che mi offrono di meno. Può essere così? Beh, questo lo è sempre stato, il fatto che è sicuramente meglio prima vendere che comprare. Al di là che questa regola dei 25 crea dei problemi oggettivi. Come giustamente sentivo adesso, la corsa al saldo dell'ultimo minuto diventa più difficile, o meglio, va programmata meglio e va programmata prima, nel senso che tu, squadra che, per non fare nomi, ma squadra che sai che hai sempre lavorato cercando di creare un organico e poi alla fine andando a prendere quelli che sono i saldi dalle squadre che hanno giocatori in esubero, lo potrai fare, ma devi tenerti lo spazio, quindi devi partire con una situazione assolutamente non definita, e tenendoti lo spazio. Questo porterà dei vantaggi se poi alla fine i giocatori li trovi e centri gli obiettivi, dei grossi svantaggi se poi alla fine quello che tu non hai preso prima non lo trovi più e ti trovi magari a 3-4 giorni dalla fine del mercato e non sai che pesci prendere, non sai che cosa fare. Anche se poi voglio verificarla bene questa norma, perché vorrei sapere un calciatore che è sotto contratto con una società che per regolamento viene messo fuori rosa e quindi viene messo nella impossibilità di esercitare la propria cosa, non è un mobbing, perché la società non è che lo fa di proposito, la società lo fa perché è costretto, dice io ho 30 giocatori e 5 per porta, io sei il più bravo, il più forte, il più bello, ma io purtroppo non lo posso fare. Allora magari le società, ma non che dico neanche le società, ma il calciatore, se fa un ricorso da un pretore del lavoro, dice io c'è un regolamento che mi impedisce di lavorare, come facciamo? Uh-huh. Cioè, non è che vale è un tema che va. Sì, è un tema però che è già stato affrontato con l'UEFA, perché il tetto a 25 più o meno con le stesse regole c'era anche per l'UEFA. Io vi do un dato, perché secondo me poi è una competizione. Cioè, è una competizione a cui tu partecipi perché ottieni qualcosa, non è una cosa tu. Magari non giochi, quanti sono i giocatori che magari non giocano perché hanno giocato nell'altra competizione, ma poi giocano in campionato normalmente. Qua è proprio una situazione che non può essere messa. Comunque, al di là di quello che è una cosa tecnica, parliamo di mercato che magari interessa di più la gente. Vabbè, allora dimmi dove va Ibrahimovic. Se vuoi parlare di mercato, no, perché domanda, chiedetelo a Mino. Lo chiediamo a Mino. Però scusami, io facendo l'interpretazione. No, ma Fabio lo sa dove va. Ma sì che lo sa. Perché lui due mesi fa disse: se il Paris Saint-Germain può prendere la Cassette, che è l'erede designato di Ibra, le cose possono cambiare. Siccome mi risulta che adesso lo possa prendere, andiamo per deduzione logica, no? Ma è chiaro, insomma, Ibra ha sempre manifestato il suo attaccamento ai colori rossoneri. I colori rossoneri hanno sempre dimostrato e manifestato l'interesse a un giocatore come Ibra. Parlo soprattutto per quello che riguarda il dottor Berlusconi e Sol Galliani, quindi questo è così. Io dico che se Ibra si sposta dal Paris Saint-Germain, le probabilità che vada a una squadra diversa dal Milan sono poche, diciamola così, fatto un giro di parole. Posso togliermi una curiosità? Io oggi ho letto l'Equipe e le Parisienne, non compare nemmeno il nome Ibrahimovic, e invece in Italia i giornali sono pieni. Ieri addirittura il nome Ibrahimovic compariva, ieri l'altro ieri, ma per dire il contrario, cioè che lui voleva restare a fare l'ultima grande stagione al Paris Saint-Germain. Allora, io so che Fabio Parisi conosce molto bene l'ambiente francese. La domanda che mi faccio è: ma perché questa è una trattativa che vive molto in Italia e in Francia quasi non esiste? Non lo so, sai, è un discorso diverso. I francesi poi sono abbastanza, come dire, protettivi. Se vai a toccare i loro giocatori in casa loro, ne parlano degli altri che vengono, sì grazie, ma cioè, poi non ci sono pagine di mercato. Esatto, poi non è, cioè, però anche, se cultura, tu guardi l'Equipe, anche leggi l'Equipe che è, diciamo, l'equivalente della Gazzetta dello Sport, soprattutto in questo periodo dove c'è il Tour de France, poi il calcio arriva a pagina 22, però le pagine di mercato ci sono, ma non è vissuto come hai vissuto qua, non, è una cosa completamente diversa. Non è chiaro che, sai, quando tu sei di fronte a queste proprietà dal portafoglio illimitato, parlo al Paris Saint-Germain piuttosto che al Manchester City, dove sono fondi sceicchi, le solite note varie che gestiscono queste cose, non fa la differenza. Cioè, per loro, se una squadra italiana anche di primo rango può spendere, e l'ha dimostrato, calciatori da 40-50 milioni, forse possono tranquillamente spenderlo, ma non possono permettersi il lusso di sbagliarlo. Certo, questo giocatore, certo, se il Paris Saint-Germain prende un giocatore, lo paga 50 milioni di euro e lo sbaglia, chi se ne frega, l'anno prossimo lo manda a giocare da un'altra parte. Bravo, tanto problemi dello sceicco, cioè, non mi spostano di una virgola. Quindi io credo che Ibrahimovic sia uno dei giocatori più forti, più vincenti che esiste in Europa e altre cose, però a Parigi, se lui se ne vuole andare, lo fanno andare. Cioè, sai, non lo legano con le, non lo legano con le catene. Di Maria 100 milioni, pronto. Ecco, andiamo a prendere Di Maria. Cristiano Ronaldo, 200. Su Cristiano Ronaldo, poi apriremo un capitolo. Grazie, Fabio. Ciao Pierluigi, intanto c'è Benitez che è già stato sfanculato da Cristiano Ronaldo in allenamento. Molto bello. Però oggi ha fatto un passo indietro. Oggi ha fatto un passo indietro. Magari domani ne fa un paio avanti, perché io ho l'impressione che quella maglia non la vestirà ancora molto a lungo. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Noi torniamo invece subito dopo il giornale radio in arrivo. Ti invidio moltissimo, gente, perché so che stai trasmettendo da Formentera, sei lì con tutti i calciatori, tutte le veline scocciate. Tutti convocati. Tutti convocati. Adesso Giovanni Capuano, diamo subito la parola a Paolo da Pavia, mio concittadino che ci ha aspettato. Diamogli anche un premio. Anche un premio. Il premio in denaro, sai chi lo paga? Chi? Paolo? Sì. Sai sì. Chi ti paga il premio in denaro? Chi me lo paga? Sir Alex Ferguson. Stavo leggendo in questo momento che da quando si è ritirato, nel maggio del 2013, quindi si è ritirato, uno dice, si è ritirato vabbè, in povertà conduce una vita sobria, ha guadagnato 5 milioni e mezzo di euro da quando si è ritirato di pensione, con contratti editoriali, incarico di ambasciatore a Manchester United, impegni pubblici in giro per il mondo a fare conferenze eccetera eccetera, e mica ha finito, quindi guadagna molto di più di prima, altro che, paga lui. Vive nella ristrettezza, però. Sì, ha qualche problema economico come tutti noi, va a chiedere il finanziamento. Sì. Dimmi, Paolo. No, io volevo dire solo riguardo alla violenza intorno allo sport. Io ho la fortuna di vedere un po' tanti paesi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, che sono molto più ruvidi dell'Italia. Eppure in tutti i paesi che ho visto, diciamo civili, la violenza non è tollerata, punto. Stop. Qual è la differenza? Quando uno inizia a menare le mani e alzare la voce, interviene l'autorità e nessuno pensa che siano fascisti o picchiatori o che è giusto così per rispettare chi è più debole. Sì, però non è proprio così. Quest'inverno in Spagna c'è stato un morto. La prima cosa che mi è venuta in mente anche a me c'è stato un morto. In una situazione che se fosse successo in Italia, insomma a Madrid, ne avremmo giustamente discusso per mesi. È vero che noi dall'estero facciamo fatica a mutuare un esempio, che è quello per cui i club capiscono di essere davvero parte lesa di queste situazioni. Ieri è girata la notizia che il tribunale inglese ha bandito dagli stadi per 5 anni 4 ultra del Chelsea che si erano resi protagonisti a febbraio di quell'episodio di razzismo nella metro di Parigi. Benissimo, questo lo fanno anche le autorità italiane, c'è il DASPO. L'unica differenza è che il Chelsea immediatamente, 2 settimane dopo e dopo aver cercato di identificare quelle persone lì, li aveva già a sua volta bandite dallo stadio. È questo scatto culturale che noi facciamo fatica a fare. Sì, poi non quello delle leggi che ci sono anche in Italia. No, ma poi insomma anche all'estero noi siamo abituati a vedere stadi belli pieni in cui non succede nulla eccetera, però episodi di violenza, e ne abbiamo avuto la riprova anche in questi giorni intorno al calcio. Ieri questi episodi non sono avvenuti dentro uno stadio, sono avvenuti in un campo di allenamento, in un parco giochi per bambini, quindi è qualcosa di diverso, e credo che questi problemi in qualche misura ce li abbiano anche da altre parti. Questo non per dire mal comune mezzo gaudio, che è un'idiozia totale. Allora, facciamo un giro dei ritiri e poi voglio parlare con un mio amico a proposito di uno dei tormentoni dell'estate. Ma secondo te Giovanni Cassano va alla Sampdoria? O Zenga vince il tiramolla? Secondo me Cassano va alla Sampdoria, dirti una cosa, ha ragione Zenga. Va bene, comunque giro dei ritiri, partiamo proprio da quello del Bologna. Parla Brichi. L'ambiente qua penso sia positivo, c'è voglia, c'è, ho detto, entusiasmo, c'è voglia di dimostrare di essere da Bologna, che non è una cosa scontata. Credo che questa piazza meriti la Serie A, e chi è qua credo che l'abbia così capito e sentito e voglia dimostrare di starci. Allora, questo era Brighi del Bologna. Frosinone Blanchard. I campionati che passati, quello della Serie B, quello della C1, ci hanno fatto capire, soprattutto quello dell'anno scorso, che il gruppo, lo zoccolo duro, no? Il cosiddetto zoccolo duro, ha sempre detto la sua in questa squadra. Ogni anno ci sono stati innesti importanti, innesti mirati ad entrare nella mentalità di questo gruppo. E adesso, più divertente, andiamo nel ritiro del Napoli, dove c'è un colloquio tra un bimbo e Maggio. Sei molto simpatico, però mi sei più simpatico perché quando mio padre dice la parola Maggio, mi ricordo quando finisce la scuola. Meraviglioso. Diamo una notizia sul Napoli. Sì, sì. Una notizia di mercato che l'agente di Bartra smentisce di aver trattato in queste ore Bartra con il Napoli. Tra l'altro, leggendo i giornali spagnoli, il Mundo Deportivo, che è, diciamo, quello di riferimento per il Barcellona, oggi nell'elenco dei centrali del Barcellona scrive che Bartra ha scelto di restare in Spagna. Chi lo sa? Dimmi una cosa, hai sentito anche tu nella metropolitana, nell'Under? Intanto sto lavorando su una notizia tutta nostra. Bravissimo. Ma hai sentito anche tu nella metropolitana, nell'underground della Milano interista, questa voce secondo cui potrebbe tornare Balotelli? Si discute. L'hai sentita? Si discute, l'ho sentita. Ah, ecco. L'hai sentita? L'ho sentita, se ne discute, e devo dirti che la curva ha già alzato sì, i muri. Sì, in questo momento la curva tanta parte della tifoseria interista è impegnata a dire no a Felipe Melo. Sì. Che è l'altro acquisto che gli interisti poco non gradito, vogliono, poco gradito, ma non per questioni tecniche, ma perché è ex juventino, insomma, e poi è un giocatore dal carattere particolare. Su Balotelli io voglio dire due cose. La prima è che è evidente che la gente dell'Inter non lo vuole, e credo che questo alla fine farà la differenza. A me risulta che Balotelli da mesi viene proposto da Mino Raiola a tanti, compreso l'Inter. Io però vi dico una cosa: quando Cassano fu scaricato dal Real Madrid, sembrava un giocatore finito, Cassano aveva 25 anni appena compiuti e si è costruito una seconda carriera di ottimo livello. Sì. Balotelli compie 25 anni ad agosto. Io credo che riprendersi oggi Balotelli non sia poi un così cattivo affare. Io invece voglio capire, tornando al discorso su Cassano, se i tifosi della Sampdoria, non quelli della curva ma quelli, diciamo, VIP, vorrebbero il ritorno di Antonio Cassano. Cassano o l'uomo ragno? Zenga o Antonio? Ciao Guido Bagatta. Buongiorno. Ciao. Tu lo domanda, vuoi? Domanda e risposta? Sì, lo vuoi? Pur adorando il personaggio, sì, che alla fine è un bravo ragazzo, un bravo soldato, la risposta è no. Perché se non lo vuole l'allenatore, che senso ha? L'allenatore, se tu lo prendi, poi discutibile o no che sia Zenga, fate tutto voi. Però se l'allenatore dice mi va bene la squadra che ho, se mi aggiungete una punta, visto che pare che Okaka parta, se mi aggiungete qualcuno davanti, voglio uno diverso, è inutile continuare a far girare queste voci. In questo caso, tanto, la cosa strana è che solitamente sono gli agenti, tipo Raiola con Balotelli, ogni due per tre dice dove potrebbe andare, butta lì, e la gente discute. In questo caso, anche perché credo che Cassano in questo momento non abbia un agente, forse, è solo lui, fa tutto lui, cioè fa Cassano le sue cassanate, chiama in ritiro i giocatori, si fa passare Zenga, chiama Viperetta, chiama un po' tutti, ha chiamato anche me, no, sta facendo tutto lui, e da un lato è anche, direi, carino, dall'altro... Beh, ma lui la Sampdoria vuole davvero bene, Guido, cioè poi non lo so, sai, i giocatori sono un po' meretrici, come tu mi puoi insegnare anche... Però lui dice: io sono nato interista, però la Sampdoria è la squadra che ho nel cuore. Potrebbe anche essere una storia romantica, se vogliamo credere al romanticismo. Ma però la Sampdoria cosa serve il Cassano? Cassano che gioca da fermo è un fenomeno, perché ha il piede forse meglio di quello di Messi, e non voglio esagerare. E il problema è che Cassano, per come gioca il calcio di oggi, che gioca da fermo, non serve a nessuno, tantomeno la squadra che sta costruendo Zenga, secondo me, proprio non ha senso. E siccome, come dicevamo l'altra volta simpaticamente, si è magnato suo fratello, Cassano, e se lo porta dappertutto, non posso pensare che faccia un'estate a Stecchetto, a Bogliasco, riducendo, diciamo, i carboidrati di cui ha bisogno, quindi non so che Cassano arriverebbe. Tu ti ricordi, Carlo, che Donadoni si era fatto sfuggire proprio ai nostri microfoni, che quando si era trovato in una situazione simile lui aveva dovuto perdere 8-9 kg nei primi tre mesi, perché poi Cassano ha ragione, Guido, è uno che immediatamente va fuori linea, va fuori forma. Però questo è anche l'anno dell'europeo e Cassano ha detto che in fondo lui ha una speranza. Il problema non è se ci vada o no, il problema è che Cassano è un giocatore che, se si mette in testa di poter pensare, e lui l'ha detto, di aspirare a una grande manifestazione, anche lui potrebbe essere un buon affare. Però ha ragione, se tu hai un allenatore e vuoi dargli retta su una scelta ho capito questa. E allora il Milan, scusami Guido, il Milan, cioè Mihajlovic, che tu hai imparato a conoscere e apprezzare molto bene, che ha detto: io Max S no, non lo voglio più. Il giorno dopo cosa succede? Max S, vieni qui, firma il contratto per un anno. Ma lì è un po' diverso, che nonostante che Mihajlovic abbia fatto in conferenza stampa una cosa, l'hanno notato in pochi, che prima nessun allenatore aveva mai usato, cioè con Berlusconi che l'ha interrotto e lui gli ha detto: no, mi scusi Presidente, non ho ancora finito questo, e nessuno ha sottolineato questo fatto, che nella storia tutti si erano supinamente adattati a, diciamo, all'istrionismo di Berlusconi. Gli ha detto: mi consenta, esatto, una cosa, mi consente, e ha continuato. Nonostante questo ha capito comunque come funziona il discorso in casa Milan, c'è un plenipotenziario che è stata una persona che sa di calcio, simpatico, tutto il resto, e quindi ha accettato. In questo caso è un po' diverso. Il fatto che Cassano abbia l'idea di andare all'europeo vuol dire poco, nel senso che io posso avere, per esempio, l'idea di diventare amministratore legato al gruppo Sole 24 Ore e di affiancare la dottoressa Treu, però non è che se ce l'ho io poi domani mattina mi chiama il presidente di Confindustria e mi dice: ah, sa cosa c'è? Non esiste, io faccio un altro lavoro, e uno può mettersi in mente tutto quello che... No, però per Cassano le motivazioni fanno tanto, ci ha insegnato questo la sua carriera. Ma ho capito, ma pensare che lui vada all'europeo mi sembra un po'... No, ma io non credo che lui vada all'europeo. Il problema è che se lui ce l'ha in testa, lui ha quei 6, 8, 10 mesi che fa ad altissimo livello. Sì, ma allora è un progetto suo, che non serve alla nazionale perché tanto non ci va. E non so al gioco della Sampdoria quanto possa servire onestamente. Sì. Io non ho, adesso vi ripeto, non ho visto la Sampdoria giocare tranne qualche scampo di amichevole. Conosco abbastanza Zenga, vedo che li vuole far correre, vedo che li sta prendendo tutti i giocatori, ha confermato i giocatori che hanno delle buone gambe, sta pensando di lasciare a caso, di cedere Okaka, che comunque è un centroboa, più che un giocatore, diciamo, di gamba, e quindi quella è la squadra. Uno come Cassano, ripeto, non c'entra moltissimo. Tu sai anche che è circolato e sta continuando a circolare anche il nome di Balotelli pure per la Sampdoria, eh? Allora, lì non potrà mai arrivare, perché quei soldi lì la Sampdoria non ce li ha neanche se vende la lanterna che credo che il Di Paretta stia tentando di comprare o dice che è sua. Quindi lì direi, ma non del cartellino, perché secondo me il Liverpool lo sta per regalare. Certamente. Ho visto le dichiarazioni ieri all'autore del Liverpool, se leggi tra le righe praticamente è già regalato. Il problema è che Balotelli è un giocatore che... come si crede ancora, e magari lo è, una superstar, guadagnava, non so quanto possa guadagnare 7-8 milioni netti all'anno, e non... già ti dico, per la Sampdoria avere dei giocatori che guadagnano delle cifre importanti come quelli di adesso è già un problema, tant'è che appena ha potuto Romero l'anno scorso ha tentato di venderlo più possibile, non c'è riuscita, quest'anno appena ha potuto liberarsi Romero ha fatto anche subito circolato. Sì, grazie, arrivederci, che tra l'altro è un ottimo portiere, non stiamo parlando di uno. Quelli soldi per Balotelli non ci sono, e credo che comunque gli allenatori che hanno fatto i giocatori, Mancini, Zenga, fai tu l'elenco, ce ne mille, Mihajlovic, sanno esattamente, al di là del discorso di Max S, che certi giocatori è meglio non portarseli a casa, perché hanno vissuto gli spogliatoi e magari sono stati anche loro prime donne come giocatori che vorrebbero portarsi a casa, quindi sanno benissimo i problemi che potrebbero creare, credo io. Sì, questo è perfetto. Con tutta la convinzione che secondo me Balotelli prima o poi crescerà, e siccome il fatto che sia un fenomeno rimane, non è che il DNA scompare, se lui cresce di testa, magari ci arriverà a 30 anni, però crescerà ed è un fenomeno vero. E Cassano forse non c'è ancora, però Cassano non è simpatico, Balotelli neanche, cioè, fa fatica a essere simpatico, questo è anche il suo problema. Cassano è un meraviglioso, una persona, io fossi un produttore televisivo non cinematografico gli darei la co-conduzione di un programma di sicuro casa. Ma anch'io non Pardo, c'è, non Cassano, c'è Pardo Cassano su Italia 1. Pardo Cassano su Italia 1, spaccano. Ma dai, spaccano, ma altro che gnocchi spaccano, che si porta spaccano. Pardo per, così, per salivare in onda. Ma dai. Senti, Pardo Cruciani, scusami, Cassano Cruciani alla Zanzara. Dai, ma vuoi mettere al posto di Parenzo? Ma meraviglioso, adesso chiamo Cruciale e glielo dico, è qua fuori. Cioè, un'ultima cosa, Guido, di palo in frasca nazionale di basket che sta nascendo con queste mille stelle luccicanti dell'NBA, ti piace? O pensi che ci si possa essere qualche problema di chimica dentro? No, quello no, perché sono tutti giocatori bravi ragazzi. Sì, quello no, finalmente li abbiamo tutti quattro. Bisogna stare attenti perché due dei quattro arrivano da stagione di fratture, sono tutti rotti, si sono ripresi, però comunque questo è il primo vero test per Bagnani sicuro, perché Bagnani è un anno e mezzo che gioca e non gioca, anche se poi ha ricominciato a star bene. Gallinari ha avuto dei grossi problemi, quindi li abbiamo così. Il problema dell'Italia è che gli europei, così come sono fatti, sono veramente una possibile caporetto, perché noi abbiamo un girone pazzesco. Non che quello di là sia più debole, però due posti per andare alle Olimpiadi con le squadre in Europa che ci sono adesso, poi quelle che non vanno dentro dalla quarta alla sesta faranno un altro girone per riqualificarsi, però la qualificazione diretta la vedo durissima. Serbia, Russia, Spagna, Francia, Grecia, Turchia, più eventualmente vedendo che squadra mette in pista la Germania, le dura. Abbiamo una buonissima squadra, i quattro dell'NBA, ma poi attenzione, c'è una nuova generazione che sta crescendo. Chiaro. Cinciarini, Gentile, Della Valle, Cervi, Melli, adesso sto citando a memoria, se dimentico qualcuno mi perdoni. Anche stesso se mette la testa a posto. Anche un po' a rischio Balotelli ultimamente. Speriamo un po' a rischio che Balotelli. Io lo conosco molto bene, spero che ritorni il Daniel di 2 anni fa, perché è un talento clamoroso. A quel punto l'unico al mondo che ha creduto nella Grecia molto più di Tsipras è stato Hackett, questo l'hanno scritto in pochi, perché ha firmato per l'Olympiakos in un momento dove per una squadra greca non avrebbe firmato nessuno. Solo lui è andato in Grecia, adesso avrà le certezze di prenderli quei soldi lì, però complimenti anche per la fiducia. Sì. Grazie Guido, sempre un piacere. Abbraccio, ragazzi. Un abbraccio Guido Magatta. Ciao. Abbiamo pubblicato lo scoop, diciamo agli amici di andarselo a cercare sul profilo Twitter @ tutti convocati. Bene. Direttamente da New York un amico, Bruschetta, sì. Così lo Bruschetta, non Bruschetta, che ci ha mandato questa foto, questo selfie con Ibrahimovic, e lui, questa persona qui, racconta di essere stato, perché è invitato dagli organizzatori, un paio di giorni con il Paris Saint-Germain, e ha detto: Ibra, quando mi ha sentito parlare italiano, Si è commosso. Ma dai, ma chi la racconti? Però c'è la foto, guardate che ha proprio un bel sorriso Ibra. Andate a vederla. Io voglio parlare con Ivan Bassi invece. Ciao Ivan. Ciao a tutti. Che è milanista, tra l'altro. Io non ci credo. Stavo ascoltando, speriamo che prima di fine agosto venga dalle mie parti. Lo vorresti? Ibra. Lo rivorresti? certo. Senza dubbio alcuno. Minestre riscaldate, non minestre riscaldate, è uno che ti cambia la vita, no Ivan? È un grandissimo, penso che Ibra lo vogliono tutti, non solo il Milan, quindi però speriamo che lo prendiamo noi. Ascolta, il tour se lo prende Froome invece, e ieri ci ha provato Contador, il tuo compagno di stanza, di avventura, di battaglia sulle strade del Giro del Tour, non è andata benissimo. Non è andata benissimo, però ci ha provato, Froome ha dimostrato anche ieri di avere una condizione che gli permette di difendere con facilità il primato, tra l'altro con un vantaggio anche importante, e ovvio che a tre giorni dalla fine un vantaggio così, con una condizione personale della sua squadra così buona, complica molto diciamo la risalita per gli uomini dietro che inseguono. Però io, come ho detto più volte, il Tour è una corsa speciale, la corsa dove tutti i campioni devono lottare anche per un piazzamento, quindi la classifica non passi da quinto a primo, devi cercare di ogni giorno cercare di migliorare la tua posizione, e è chiaro che c'è sempre meno spazio, però sicuramente ci proveranno oggi, ci proveranno domani e anche sabato. Sì, gli stacchi non autorizzano grandi sogni neanche per una risalita di Nibali. Non parlo di Froome, che ormai metto hors category, ma parlo di questi piazzamenti e della possibilità di quantomeno di rivedere la classifica per il podio. Ma quattro tappe consecutive così dure possono, a mio parere, disegnare la classifica. Difficilmente cambia la condizione. Io vedo i primi due, Froome e Quintana, hanno dimostrato in tutti gli arrivi in salita di avere qualcosa in più degli altri, quindi a meno di situazioni dove per loro demeriti perdono terreno, diventa difficile contrastarli. Però dal terzo posto, con un Tour così difficile e con quattro tappe consecutive di montagna, a mio parere c'è terreno spazio. E c'è anche una situazione dove non tutti i corridori possono avere un rendimento buono per tutti e quattro i giorni, quindi c'è lo spazio per fare qualcosa di buono. Ivan, Nibali mi sembra che abbia una condizione diversa rispetto alla prima settimana. Hai l'impressione, anche per esperienza, cioè ci può essere stato magari un calcolo sbagliato? Cioè è entrato perfettamente in condizione, probabilmente con qualche giorno di ritardo, e l'ha pagata un po' di sfortuna, ma anche gli mancava la gamba in alcuni momenti? Guarda, io è difficile giudicare senza aver parlato con il diretto interessato, comunque quindi è difficile dare un giudizio. Io credo che lui era pronto, l'ha dimostrato al campionato italiano, l'ha dimostrato nella prima parte del Tour. La caduta può aver influito e comunque si cerca sempre il demerito e non il merito degli avversari. O comunque bisogna comprendere anche una cosa, che a quel livello, quando tu sei con i 6, 7, 10 migliori al mondo in una corsa come il Tour, non è sufficiente. Se non sei pronto, arrivi nel secondo gruppo o arrivi nell'ultimo gruppo. Quando tu sei ancora in lotta per un piazzamento, comunque per un podio, vuol dire che puoi aver avuto una giornata non ottimale, o comunque una condizione fisica, un virus, una caduta, che anche solo un minimo che influisca un minimo nella tua prestazione, ma a quel livello vuol dire tanto, perché competi con i migliori. Quindi certo, io trovo che nei confronti di Nibali a volte in questi ultimi giorni c'è stato un giudizio affrettato, e sono felice che ha dimostrato poi di avere un grande carattere e lotterà sicuramente Lo aspettiamo su tutte le montagne. Ivan Basso, ti ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo, quanto prima. Grazie a voi, è sempre un piacere. Buon pomeriggio. Grazie a Giovanni Capuano che mi ha fatto compagnia. Grazie oggi. A te. Giorgio De Luca, il nostro autore, Pietro Lacorte in regia e Giovanni in redazione. Domani alle 2, ciao a tutti. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.